Sono le 10, a letto tutti, disse papà Baer consultando l'orologio. E grazie al cielo non ci sarà nessun letto vuoto, aggiunse mamma Jo senza poter staccare gli occhi da Robby che il babbo portava a Nanna tenendolo in collo, seguito da Nan, scortata a sua volta da Daisy e da Demi che la consideravano la più interessante eroina della loro collezione. La povera zia Jo è così stanca che avrebbe bisogno di essere portata su anche lei, disse il gentile Franz, cingendole la vita col braccio, mentre lei si fermava ai piedi della scala, esausta dallo spavento e dalla lunga camminata. Facciamole un seggiolino, propose Tommy. No, grazie, cari figlioli, ma qualcuno può offrirmi la sua spalla perché mi ci appoggi? Io! E una mezza dozzina di loro cominciarono a fare le spinte nel desiderio di essere scelti, perché in quel pallido volto materno c'era qualcosa che li commuoveva profondamente. Vedendo che lo consideravano come un onore, mamma Jo lo concesse a quello che se l'era guadagnato e nessuno protestò quando lei, appoggiando il braccio sulla larga spalla di Dan, disse, con uno sguardo che lo fece arrossire di orgoglio e di piacere: «È stato lui a trovare i piccoli, quindi mi pare che tocchi a lui aiutarmi a salire». Dan si sentì largamente ricompensato delle fatiche di quella sera, non solo per essere stato scelto fra tutti a salire con lei, portandole la lampada, ma anche perché, quando la lasciò alla porta della sua camera, la signora Jo gli disse in tono tanto affettuoso: «Buonanotte, figliolo mio, Dio ti benedica». «Vorrei essere davvero suo figlio», disse Dan, con l'impressione che il pericolo e l'angoscia lo avessero avvicinato più che mai a lei. «Tu sarai il mio figliolo maggiore». E suggellò la sua promessa con un bacio che glielo conquistò definitivamente. Il giorno dopo il piccolo Rob stava benissimo, ma Nan aveva mal di capo e rimase sdraiata sul divano di mamma Baer col viso tutto sgraffiato, coperto dalla crema per la pelle. Del suo rimorso non c'era più traccia ed ella considerava evidentemente lo smarrirsi un gran bel divertimento. Ma alla signora Jo non piaceva tale stato di cose perché non voleva che i suoi ragazzi si sviassero dal sentiero della virtù o che i suoi discepoli restassero sperduti fra i cespugli di more. Parlò quindi molto seriamente a Nan, cercando di farle capire la differenza fra libertà e licenza e corroborando la sua lezione con parecchi esempi. Non aveva ancora deciso come l'avrebbe punita, ma uno di quei racconti gliene suggerì il modo, e siccome ella amava i castighi originali, volle tentarlo. «Tutti i ragazzi scappano», disse Nan per giustificarsi, quasi si trattasse di una cosa naturale e inevitabile, come la rosolia o la tosse convulsa. «Non tutti, e qualcuno di quelli che scappano non è più ritrovato». «Non è scappata anche lei?» chiese la bambina, i cui occhi perspicaci avevano scoperto tracce di affinità spirituale nella grave signora che cuciva così composta accanto a lei. Mamma Jo confessò ridendo che era vero. «Me lo racconti, signora», pregò Nan, sentendo che nella discussione la vittoria sarebbe stata sua. Mamma Jo lo capì e si rifece subito seria, dicendo, mentre scuoteva il capo con espressione piena di rimorso: «L'ho fatto parecchie volte, rendendo ben dura la vita alla mia povera mamma con le mie monellerie, finché lei riuscì a guarirmi». «E in che modo?» E Nan si tirò su a sedere molto interessata. «Una volta avevo un paio di scarpe nuove e volevo farle vedere. Allora, sebbene mi fosse stato proibito di uscire dal giardino, scappai via e andai girondolando tutto il giorno. Si era in città e non so davvero come non finissi male. Ma quanto mi divertii! Feci il chiasso nel giardino pubblico coi cani, misi in acqua delle barchette insieme con ragazzi che non conoscevo, mangiai baccalà e patate con una piccola mendicante irlandese e alla fine mi rinvennero profondamente addormentata sugli scalini di una porta abbracciata a un grosso cane. Era sera tardi, ero sudicia come un maialetto e le scarpe nuove andavano a pezzi, tanto avevo camminato. Oh, che bellezza!» esclamò Nan, che aveva tutta l'aria di voler tentare l'avventura anche lei. «Ma non fu una bellezza il giorno dopo», disse mamma Jo, cercando di nascondere quanto la divertissero i ricordi delle sue lontane scappate. «La mamma la frustò?» chiese Nan incuriosita. «Mi frustò una volta sola e poi mi chiese scusa, altrimenti credo che non le avrei mai perdonato, tanto ne fui offesa». «Perché le chiese scusa? Il mio babbo non lo fa mai». «Perché quando mi ebbe frustata io mi voltai e le dissi: "Ebbene, anche tu vai sulle furie e meriteresti di essere frustata, non meno di me". La mamma Mi guardò un minuto e tutta la sua collera svanì. Disse, come se si vergognasse: Hai ragione, Joe. Sono andata in collera. E perché dovrei punirti delle tue furie quando ti do io stessa il cattivo esempio? Perdonami, cara, e cerchiamo di aiutarci a vicenda per divenire migliori. Non potei mai scordarlo, e quelle parole furono più efficaci di una dozzina di frustate. Questo mi piace, disse allora Nan, che perse per un momento la sua aria da folletto, con gli occhi acuti, il nasino petulante e la bocca maliziosa. E che cosa le fece la mamma quella volta che scappò? Mi legò a una colonna del letto con una lunga cordicella, in modo che non potessi uscire dalla stanza, e ci rimasi tutto il giorno con le scarpe rotte appese davanti a me, per ricordarmi la mia scappata. Oh, credo che questa sarebbe una buona cura per chiunque, esclamò Nan, che amava la sua libertà più di ogni altra cosa. Per me servì, e credo che servirebbe anche a te, quindi voglio provare. E la signora Jo prese dal suo tavolino da lavoro un gomitolo di spago assai forte. Nan, questa volta, capì di avere la peggio e rimase molto avvilita, mentre la signora Jo le legava un capo dello spago alla cintola e annodava l'altro a un bracciolo del divano, dicendo a opera compiuta: Non mi piace legarti come un cattivo cagnolino, ma dato che dimostri di non avere una memoria migliore della loro, ti tratto come uno di essi. A me fa proprio lo stesso essere legato o no, mi piace giocare a fare il cane. E Nan, con aria indifferente, cominciò a ringhiare e a camminare a quattro zampe. Mamma Jo parve non badarci, ma lasciando nella stanza uno o due libri e un fazzoletto da urlare, uscì abbandonando Nan alle sue risorse. Non era certo una cosa piacevole, e dopo essere stata un momento seduta, ella tentò di sciogliere la cordicella, ma era assicurata dietro alla cintura del suo grembiule. Provò col nodo all'altra estremità e riuscì subito a scioglierlo. Allora, dopo aver aggomitolato lo spago, stava già per saltare dalla finestra quando sentì Mamma Jo che attraverso il vestibolo diceva a qualcuno: No, non credo che voglia fuggire. È una ragazza d'onore e sa che lo faccio per il suo bene. D'un balzo, Nan tornò indietro e si legò di nuovo e si mise a cucire disperatamente. Subito dopo entrò Rob e fu così incantato di quel nuovo castigo che prese una corda da saltare e si legò all'altro braccio del divano con esemplare senso di solidarietà. Anch'io mi sono sperduto e devo essere legato come Nan, spiegò a sua madre quando ella vide quel secondo prigioniero. Forse meriti anche tu un piccolo castigo perché sapevi di far male ad allontanarti tanto dagli altri. È stata Nan a portarmici, cominciò a dire Rob, disposto bensì a subire quella nuova forma di castigo, ma non a prendersi anche il biasimo. Non dovevi andare, per quanto tu sia ancora piccolo, hai una coscienza e devi imparare ad ascoltarla. Ma la coscienza non mi ha mica punto quando lei mi ha detto scavalchiamo quel muretto, rispose Rob citando una delle espressioni favorite di Demi. Ti sei fermato per sentire se pungeva? No. Allora come fai a dirlo? Forse è una coscienza troppo piccina per farsi sentire quando punge, congetturò Rob dopo un attimo di riflessione. Dunque bisogna aguzzarla. È un guaio avere una coscienza spuntata. Quindi resterai qui fino all'ora di pranzo e ne parlerai con Nan. Mi fido di voi, che non vi sciogliate finché non lo dico io. No, non ci scioglieremo, assicurarono tutti e due, sentendosi molto virtuosi, poiché collaboravano al loro castigo. Per un'ora stettero proprio buoni, poi si seccarono di essere relegati in una stanza e sospirarono di poterne uscire. Mai il vestibolo era apparso così invitante. Persino la piccola camera da letto acquistava un improvviso interesse. Come avrebbero voluto poterci andare a giocare, fingendo di essere accampati sotto la tenda formata con le cortine del letto. Le finestre aperte li mettevano alla disperazione perché non ci potevano arrivare e il mondo esterno sembrava così bello che si stupivano di averlo potuto qualche volta trovare noioso. Nan si struggeva di fare una corsa attorno al prato e Rob pensava tutto accorato che quella mattina non aveva dato da mangiare al suo cane. E si chiedeva che ne sarebbe stato del povero Pollux. Guardavano l'orologio e Nan faceva dei calcoli elaborati di minuti e secondi mentre Rob imparava a leggere le ore tra le 8 e l'1, in modo da non scordarlo più. C'era da impazzire sentendo il buon odore del pranzo. Ci doveva essere lo stufato, il budino di more, e loro non sarebbero stati sul posto per assicurarsene una buona porzione. Quando Mariani incominciò ad apparecchiare, per poco non si tagliarono la pelle con la corda, cercando di capire che cosa portava in tavola. E Nanna le offerse di aiutarla a rifare i letti, purché le mettesse tanta, tanta salsa sul budino. Quando i ragazzi uscirono strepitando dalla scuola, trovarono i due piccini che tiravano sulle loro pastoie come un paio di puledri imbizzarriti. E rimasero molto edificati, non meno che divertiti dal seguito delle eccitanti avventure della notte prima. «Mammina, scioglimi ora. Quest'altra volta la coscienza mi bucherà come uno spillo, lo so», disse Rob, quando suonò la campana e Teddy venne a guardarlo con dolorosa sorpresa. «Vedremo», rispose la mamma liberandolo. Egli fece una bella corsa nel vestibolo e poi attraverso la stanza da pranzo e tornò vicino a Nan col volto illuminato di virtuosa soddisfazione. «Posso portarle il suo pranzo?» chiese, mosso a pietà, della sua compagna di prigionia. «Ecco il mio buon bambino, certo, spingi avanti la tavola e prendi una sedia». E mamma Jo corse via per calmare l'ardore degli altri che a mezzogiorno avevano sempre una fame rabbiosa. Nan mangiò sola e trascorse un lungo pomeriggio legata al divano. La signora Jo aveva allentato i suoi legami perché potesse arrivare fino alla finestra, dove rimase a guardare i ragazzi che giocavano e le piccole creature estive che si godevano la loro libertà. Daisy fece una merenda per le bambole sul prato perché Nan assistesse al gioco, anche se non poteva parteciparvi. Tommy eseguì i suoi più bei salti mortali per consolarla. Demi sedette sui gradini leggendo per conto suo ma ad alta voce, il che divertì assai Nan. E Dan le portò un piccolo ranocchio da ammirare, delicatissima attenzione da parte sua. Ma nulla poteva compensare la perdita della libertà, e un breve periodo di relegazione fece capire a Nan quanto fosse preziosa. Molti pensieri passarono per la sua testolina, reclinata sul davanzale della finestra nell'ultima ora tranquilla, mentre i ragazzi erano andati al ruscello a veder varare la nuova nave di Emily. Avrebbe dovuto esserne lei la madrina e aveva calcolato di rompere una bottiglietta di sugo di ribes sulla prua. La nave sarebbe stata chiamata Josephine in onore della signora Baer. Ora ella aveva persa quella bella occasione e Daisy non saprebbe fare le cose bene come lei. Al pensiero che era tutta colpa sua, le lacrime le salirono agli occhi e, rivolgendosi a una grossa ape che si avvoltolava nel cuore di una rosa gialla, proprio sotto la finestra, disse ad alta voce: «Sei scappata anche tu, eh? Faresti meglio a tornare subito a casa e a chiedere perdono alla tua mamma, promettendo di non farlo più. Sono contenta di sentire che le dai un così buon consiglio, e mi pare che lo abbia seguito», disse mamma Jo sorridendo, mentre l'ape allargava le ali cariche di polline e volava via. Nan asciugò in fretta qualche gocciola che luccicava sul davanzale e si rannicchiò sulle ginocchia della sua amica, che le disse affettuosamente, perché aveva visto le goccioline e sapeva cosa significavano: «Che te ne pare della cura di mia madre? È buona?» «Sì, signora», rispose Nan, domata da tutte quelle ore di quiete. «Spero di non doverla più applicare». «Lo credo anch'io». E Nan la guardò con un'espressione così seria sul suo visetto che mamma Jo si sentì soddisfatta e non aggiunse altro, perché le piaceva che i suoi castighi facessero il loro effetto e non voleva sciuparli con troppe prediche. A questo punto comparve Rob, portando con cura infinita quella che Asia chiamava una torta alla teglia, intendendo cotta al forno dentro una teglia. «È fatta con parte delle mie more e a cena te ne darò la metà», annunziò facendo un bell'inchino. «Perché, se sono così cattiva?» chiese Nan umilmente. «Perché ci siamo sperduti insieme. Tu non sarai più cattiva, vero?» «No, mai», promise Nan in tono deciso. «Che bellezza! Ora andiamo a farla tagliare da Mary Ann per mangiarla subito. È quasi l'ora del tè». E Rob accennò alla deliziosa torta. Nan si mosse per seguirlo, ma subito si fermò e disse: «Oh, m'ero scordata che non posso venire». «Prova un po'», disse mamma Baer, che mentre parlava l'aveva piano piano slegata. Nan vide allora che era libera e con un bacio violento alla signora Jo volò via come un colibrì, seguita da Rob, che correndo lasciava sgocciolare il sugo delle more. Capitolo 13. Chioma d'oro. Dopo quell'ultima turbinosa vicenda, la pace discese su Plumfield e regnò ininterrotta per parecchie settimane, perché i ragazzi più grandi, che sentivano pesare sulla loro coscienza l'avventura di Nan e di Rob, li sorvegliavano ora con una cura così paterna da riuscire quasi noiosi. Mentre i più piccoli avevano ormai ascoltato tante volte il racconto di Nan, che consideravano lo sperdersi come la più grande sventura inflitta al genere umano, e osavano appena mettere il nasetto fuori dal portone, per paura che la notte piombasse improvvisa e qualche spettrale mucca nera venisse muggendo attraverso le tenebre. È troppo bello per durare, diceva mamma Jo, che dopo tanti anni spesi a educare i ragazzi sapeva per esperienza come tali periodi di bonaccia siano abitualmente seguiti da un qualche cataclisma. E mentre una donna meno accorta si sarebbe illusa che i suoi discepoli fossero diventati dei santi, ella si preparava invece a un'improvvisa eruzione del domestico vulcano. Quella calma benedetta era dovuta anche a una visita della piccola Bess, che i genitori avevano mandata a Plumfield per una settimana, mentre essi andavano dal nonno Lawrence, che non stava bene. I ragazzi consideravano Chiomadoro come un impasto di bimba, di angelo e di fata, perché era davvero una creaturina adorabile, e i capelli d'oro ereditati dalla sua bionda mammina la avvolgevano come un velo luminoso, dietro il quale ella sorrideva ai suoi adoratori quando era ben disposta, o si nascondeva quando era offesa. Suo padre s'era opposto a farglieli tagliare, e quelli le scendevano sino alla vita, così morbidi, fini e lucenti, che Demi insisteva a dire che erano seta filata da un bozzolo. Tutti lodavano la principessina, ma questo non sembrava nuocerle. Le dimostrava solo che la sua presenza portava il sole, che ai suoi sorrisi rispondevano sorrisi sugli altri volti, e i suoi piccoli crucci infantili trovavano in ogni cuore la più tenera simpatia. Senza rendersene conto, ella faceva più bene ai suoi giovani sudditi di quanto non ne facciano molti effettivi sovrani, perché il suo governo era mite e il suo potere più sentito che veduto. La naturale signorilità la rendeva raffinata in ogni cosa e produceva un buon effetto sui ragazzi trascurati che la circondavano. Non si lasciava toccare da nessuno in modo sgarbato o con mani poco pulite, e durante le sue visite si consumava più sapone che in ogni altro periodo di tempo, perché i ragazzi consideravano come l'onore più ambito portare in collo Sua Altezza e come la massima umiliazione essere respinti con uno sdegnoso "va via, sei sporco". Non le piaceva sentirli gridare e si spaventava se litigavano. Quindi le loro voci giovanili prendevano accenti più gentili se si rivolgevano a lei e gli alterchi erano subito soffocati in sua presenza, per opera degli spettatori, se gli interessati non sapevano frenarsi. Le piaceva essere servita e i più grandi facevano le sue piccole commissioni senza brontolare, mentre i più piccoli erano i suoi devoti schiavi. La supplicavano per ottenere di trascinare la sua carrozzella, di portare il suo cestino delle more o di passarle il piatto a tavola. Nessun servizio era troppo umile e Tommy e Ned vennero alle mani prima di decidere a quale dei due spettasse l'onore di lucidarle le scarpette. Chi guadagnò di più da quelle settimane di convivenza con l'educatissima piccina fu Nan. Bess la guardava con un misto di stupore e di sgomento nei suoi grandi occhi azzurri, quando gridava sgarbatamente, faceva scherzi grossolani, ritraendosi impaurita da lei come da una bestia selvatica. E il cuore affettuoso di Nan ne soffriva molto. Cominciò col dire "Puah, non me ne importa nulla". Invece gliene importava assai. E quando Bess disse una volta "Voglio più bene alla mia cuginetta perché è più buona", ci rimase tanto male che scrollò la povera Daisy fino a farle battere i denti e poi scappò nel capannone a piangere disperatamente. In quel rifugio generale degli spiriti conturbati, conforto e buon consiglio le vennero da un'ignota sorgente. Forse le rondini dai loro nidi di fango sotto i travi le bisbigliarono una piccola lezione sulla bellezza della cortesia. Certo si è che ne uscì completamente domata e andò nell'orto a cercare una certa qualità di mele primaticce che piacevano a Bess perché erano dolci, piccole e rosee. Armata di questo pegno di pace, si avvicinò alla principessina e glielo presentò umilmente. Con sua grande gioia fu accettato e quando Daisy dette a Nan il bacio del perdono, Bess la imitò, come se capisse di essere stata troppo severa e volesse fare ammenda. Dopodiché giocarono insieme tutte contente e Nan godette per alquanti giorni del massimo favore. Non si può negare che si sentiva un po' come un uccelletto selvatico in una bella gabbia e occasionalmente provava il bisogno di sgusciar fuori per spiegare le ali in un lungo volo o per cantare con tutte le forze dei suoi polmoni dove non dovesse temere di disturbare né Daisy, la grassa tortorella, né Bess, lo schizzinoso canarino d'oro. Ma questo le giovava, perché vedendo la principessina amata da tutti per le sue grazie e i suoi pregi infantili, prese a imitarla, essendo lei stessa assetata d'affetto e volendo con ogni mezzo conquistarselo. Non c'era nella casa un ragazzo che non subisse l'influenza della graziosa bambina e non ne fosse migliorato, senza capire chiaramente il come e il perché, dato che i bimbi possono operare dei veri miracoli nei cuori che li amano. Il povero Billy provava un'infinita soddisfazione nel contemplarla, e sebbene ciò non le piacesse troppo, glielo permetteva, tuttavia, senza rannuvolarsi, dopo che le ebbero spiegato che egli non era un ragazzo come tutti gli altri e che andava quindi trattato più gentilmente. Dick e Dolly non facevano che fabbricarle fischietti di canna, l'unica cosa che sapessero fare, ed ella li accettava, sebbene non ne facesse nulla. Rob la serviva come un piccolo innamorato e Teddy le andava dietro come un cagnolino. Jack non le piaceva perché aveva i porri alle mani e la voce aspra, e nemmeno Staffy, che stava male a tavola, cosicché il povero ragazzo cercava di inghebbiarsi meno per non disgustare la schizzinosa damigella che gli sedeva di fronte. Ned cadde in disgrazia e fu bandito dalla piccola corte perché sorpreso a tormentare un disgraziato topolino. Chiomadoro non poté mai dimenticare quel triste spettacolo, e se egli si avvicinava, ella si nascondeva dietro il velo dei suoi capelli, respingendolo con un gesto imperioso della manina e gridando in tono fra addolorato e irritato: «No, non ti voglio bene, tagli le code ai topolini e li fai soffile!» Daisy, quando arrivò Bess, abdicò subito, e dal posto di reginetta passò umilmente a quella di capo cuoca, mentre Nan fungeva da prima damigella d'onore. Emil, ministro delle finanze, profondeva il denaro pubblico nell'organizzare spettacoli che arrivarono talora a costare anche 9 soldi. Franz era il primo ministro e dirigeva gli affari di Stato, progettava viaggi e regali attraverso il regno e trattava con le potenze estere. Demi era il suo filosofo e se la passava molto meglio di quanto accada di solito a tali personaggi quando sono fra le teste coronate. Dan era l'esercito stanziale e difendeva valorosamente i suoi territori. Tommy il buffone di corte e Nat e il suo melodioso piccolo musicista personale. Lo zio Fritz e la zia Jo godevano quel periodo di pace, osservando i ragazzi che inconsciamente giocavano alle persone adulte, senza l'elemento tragico che guasta così spesso i drammi che si svolgono sulla grande scena della vita. «Impariamo da loro non meno di quanto essi imparano da noi», diceva papà Baer. Dio li benedica, non immaginano certo quanti spunti ci danno per il modo migliore di tirarli su, rispondeva mamma Jo. Avevi proprio ragione circa i buoni effetti dell'educazione mista di ragazzi e ragazze. Nan ha svegliato un po' Daisy e Bess sta insegnando le buone maniere a questi orsacchiotti meglio di quanto non si riesca noi. Se questa riforma continua a procedere con lo stesso ritmo, presto io sarò come il dottor Blimber coi suoi giovanottini modello, disse ridendo il professore, che aveva visto Tommy non solo levarsi il cappello, ma far volare via anche quello di Ned, entrando nel vestibolo dove la principessina faceva una cavalcata sul suo cavallo a dondolo, scortata da Rob e da Teddy, che a cavalcioni di 2 sedie rappresentavano del loro meglio la parte di galanti cavalieri. «Oh, tu non sarai mai un Blimber, Fritz, non ci riusciresti neppure se tu volessi tentarlo!» E i nostri ragazzi non si piegherebbero mai al forzato procedimento di quella famosa serra. Non c'è davvero pericolo che siano così eleganti. Ai ragazzi americani piace troppo la libertà. Ma acquisteranno certo le buone maniere, se sapremo ispirare loro quella amabilità che si riflette anche nel contegno più semplice, rendendolo cortese e cordiale, come il tuo, caro il mio vecchio ragazzo. Zitta, zitta, niente complimenti fra noi, perché se comincio io tu scappi via. E invece voglio godermi questa beata mezz'ora sino alla fine. Ma papà Baer aveva l'aria contenta del complimento ricevuto, perché era sincero e la signora Jo sentiva che il migliore che egli potesse farle era di dichiarare che vicino a lei trovava il suo riposo e la sua felicità. Per tornare ai bimbi, ho avuta proprio ora un'altra prova della benefica influenza di Chiomadoro. disse mamma Jo avvicinandosi con la sedia al divano dove il professore si riposava dal lavoro di una lunga giornata nei vari campicelli. Nan detesta cucire, ma per amore di Bess si è arrabattata a mezzo il pomeriggio per mettere insieme un'inverosimile borsa da offrire al suo idolo quando partirà, con una dozzina dei nostri pomodori. Io le ho fatto i miei elogi e lei mi ha detto con quel suo modo vivace: mi piace cucire per gli altri, per me lo trovo stupido. Non me lo sono fatto ripetere e le ho dato da fare delle camicine e dei grembiulini per i bimbi della signora Carney. È così generosa che è capace di consumarsi le dita per loro, senza che io debba imporglielo come un compito. Ma il cucito non è un lavoro elegante, mia cara. Tanto peggio. Le mie ragazze impareranno tutto quello che c'è da sapere e che io posso insegnare loro, non soltanto le materie intellettuali, ma anche il lavoro fisico e manuale. Amy dice che vuol fare della sua bimba una donna compita, ma Bess ha già delle piccole bucature nell'indice e la sua mamma conserva parecchi lavorini di ago, di cui è più orgogliosa che Lori dell'uccellino senza becco modellato da Bess. Anch'io ho avuto prove del potere della principessina, disse papà Baer, osservando sua moglie che attaccava un bottone con aria di supremo disprezzo per il sistema dell'educazione elegante. Jack, che teme di essere messo in un mazzo con Staffy e Ned, per cui Bess prova tanto disgusto, poco fa è venuto da me perché gli cauterizzassi i suoi porri. Gliel'avevo proposto spesso, ma invano. Ora invece ha sopportato il male coraggiosamente, consolandosi della pena presente con la speranza di futuri favori. Quando potrà mostrare le mani senza porri alla schifiltosa damina. Mamma Baer rise a quel racconto e proprio allora Staffy venne a chiedere il permesso di dare a Chiomadoro qualcuno dei dolci che la sua mamma gli aveva mandati. Non le permettono di mangiarne, ma se vuoi darle la bella scatola con la rosa rossa di zucchero sarà molto contenta, disse mamma Jo, non volendo che andasse sprecata quella insolita prova di altruismo, perché il grassone Staffy difficilmente offriva di dividere i suoi dolci. Non ci sarà pericolo che la mangi? Non vorrei che poi avesse a sentirsi male, disse Staffy, guardando con amore il delicato dolce, ma riponendolo nella scatola. Oh no, non la toccherà se le dico che è solo da guardare. La terrà per tutta la settimana senza assaggiarla. Saresti capace di fare altrettanto? Lo spero bene, sono tanto più vecchio di lei, gridò Staffy indignato. Ebbene, se provassimo? Ecco, metti i tuoi dolci in questa borsetta e vediamo fino a quando ce li lascerai. Aspetta che li conti. 2 cuori, 4 pesci rossi, 3 cavalli di zucchero di orzo, 9 mandorle e una dozzina di cioccolatini. Siamo d'accordo? Chiese la scaltra mamma Jo chiudendo i dolci nella sua borsetta. Sì, disse Staffy con un sospiro e intascato il frutto proibito, se ne andò a presentare il suo regalo a Bess, il che gli valse un sorriso e il permesso di accompagnarla a fare un giretto in giardino. Finalmente il cuore l'ha vinta sullo stomaco del povero Staffy e i suoi sforzi saranno incoraggiati dalle ricompense di Bess, disse mamma Jo. Felice l'uomo che può mettersi in tasca le tentazioni e imparare l'altruismo da una così cara maestra, osservò papà Baer, mentre i bambini passavano davanti alla finestra, Staffy col grasso volto placido e soddisfatto e Chiomadoro intenta a osservare la sua rosa di zucchero con cortese interesse, pur sentendo che avrebbe preferito un fiore vero col buon odore. Quando suo padre venne a riprenderla, fu un coro di proteste. E i doni di addio aumentarono talmente il suo bagaglio che il signor Lori propose di tirar fuori il carro grande per trasportarla in città. Tutti le avevano dato qualcosa e non fu certo facile impacchettare topolini bianchi, torte, un pacco di conchiglie, mele, un coniglio che si agitava disperatamente in un sacco, un grosso cavolo per nutrirlo durante il viaggio, una bottiglia piena di pesciolini e un gigantesco mazzo di fiori. La scena degli addii fu commovente. La principessina, seduta sulla tavola dell'atrio, circondata dai suoi sudditi, baciò i cuginetti e tese la manina agli altri che la strinsero delicatamente, con dolci parole, perché avevano imparato a non vergognarsi delle loro emozioni. «Torna presto, piccola cara», bisbigliò Dan, appuntandole sul cappello il suo più grazioso scarabeo verde oro. «Non mi dimenticare, principessina, qualunque cosa tu faccia», disse con tono insinuante Tommy, accarezzandole ancora una volta i bei capelli. Verrò a casa tua quest'altra settimana, così ti rivedrò, Bess, promise Nat, quasi cercando conforto in quell'idea. Ora puoi stringermi la mano, gridò Jack, offrendole la sua zampa liscia. Eccotene due nuovi perché tu ti ricordi di noi, dissero Dick e Dolly, presentando le due fischietti, ignari che i sette precedenti erano finiti nella stufa di cucina. Tesorino mio, mi metterò subito a ricamarti un segnalibro e dovrai conservarlo sempre, disse Nan abbracciandola teneramente. Ma l'addio più patetico di tutti fu quello del povero Billy, perché l'idea che essa se ne andava davvero gli era così insopportabile, che le si buttò ai piedi abbracciandole gli stivalini azzurri e dicendo, con voce rotta dai singhiozzi, non andar via, non andar via. Chiomadoro fu tanto commossa da quello scoppio di sentimento che si chinò su di lui e sollevandogli il capo disse con la sua dolce vocina, non piangere, povero Billy, io ti darò un bacio e tornerò presto. Questa promessa lo consolò ed egli si ritrasse, raggiante di orgoglio per l'insolito onore. Anche a me, strillarono Dick e Dolly, persuasi che la loro devozione meritasse una ricompensa. Gli altri avevano tutta l'aria di volersi unire a quel grido, finché la principessina tese le braccia, dicendo con serena condiscendenza: Voglio baciarvi tutti. Come uno sciame di api, attorno a un fiore profumato, gli affettuosi ragazzi circondarono la loro graziosa compagna di giochi, finché ella parve una piccola rosa, con garbo, ma con tale entusiasmo che per un momento non si vide più altro che l'orlo del suo cappello. Allora suo padre accorse alla riscossa ed ella si allontanò in carrozza, continuando a sorridere e ad agitare le mani, mentre i ragazzi, seduti sulla barriera, schiamazzavano come un branco di galline faraone, torna, torna, finché non fu scomparsa alla loro vista. Tutti ne sentirono la mancanza e ognuno aveva la vaga impressione di essere diventato migliore per il contatto con una creatura così graziosa, così delicata e dolce, perché la piccola Bess parlava al loro istinto cavalleresco come qualcosa da amare, da ammirare e da proteggere con una specie di tenera reverenza. Più di un uomo ricorda qualche graziosa bambina che trovò un posticino nel suo cuore e ne serba viva la memoria con il semplice incanto della sua innocenza. E quei piccoli uomini imparavano appunto a sentire quel potere e ad amarlo per il suo influsso gentile, senza vergognarsi di lasciare che una delicata manina li guidasse, né di manifestare la loro devozione verso la donna, sia pure in forma embrionale.